8 minuti di lolly, ovvero 2 volte 2 minuti di lolly. I 2 minuti di lolly hanno una durata percepita variabile. Buongiorno, lei è il titolare? Sì, perché si vede? Sì, la vedo con questa faccia un po' stanca. Le rubo solo 5 minuti, sai, io ho i capelli molto lunghi. Veramente devo andare a Barisiera a tagliare un diamante, comunque dica pure. Lei conosce la nostra società Elena Elena, siamo fornitori di energia elettrica, lo sa che adesso c'è il libero mercato. Veramente non la conosco, poi non ho molta fiducia. Lei è giovane, con i capelli lunghi. Sì, ho i capelli molto lunghi, anche un po' sudati, anche la fronte, vede, sono un po' sudato, però parlo molto lentamente, poi ho la cravatta. Vabbè, dica pure, dica. Mi fa vedere la sua ultima bolletta? Ce l'ha come salista. La penultima? La Fede Agricoltori. La terz'ultima? La Confartigianato. La quart'ultima è su YouTube. Quelle dello scorso trimestre, scusi, siamo ai capelli molto lunghi. Guardi, io ce ne ho una dell'84, se, anzi non ce l'ho, ma la sua memoria. Quanto paga il kilowatt? Beh, 1,50 al mattino, 1,40 al pomeriggio e 0,70 la notte. Così poco la notte? Sì, infatti dormo sempre con la luce accesa. Guardi, con noi pagherà sempre 0,60 e sarà sempre festa. Ho i capelli molto lunghi, allora se mi fa una copia del documento facciamo un contratto. Ma guardi, devo andare a Montelungo a misurare una cantina abusiva che appare e scompare, appare e scompare. Ma voi giovani siete tutti così con i capelli lunghi, sudati? Sì, presente, gli agenti immobiliari hanno tutti la smart, noi dell'energia elettrica siamo giovani, con i capelli molto lunghi, anche un po' sudati. Se mi metto una firma qui, non c'è mica il timbro della ditta? C'ho il timbro dei gomiti di mio figlio, va bene. Va benissimo, tanto ho i capelli molto lunghi. Come firma faccio quella di mia cognata che gli ha staccato la luce, non capisce un cazzo. Sì. Va benissimo, tanto sono un po' sudato. Ma lei come compagnia telefonica chi ha? Non capisco un cazzo, mi ha staccato il telefono. Ho capito, ma perché noi siamo partner di Vodafone Team che ha delle magnifiche offerte, perché non capisce un cazzo. Canone è zero? Sì, ma solo per quelli con i capelli molto lunghi, dopo la chiamata hanno il telefonino un po' sudato, solo con lo scatto alla risposta. Ho capito un cazzo. Allora le do subito il telefonino incomodato gratuito. No, devo dare scotte una fattura da un cinese a Sesto Fiorentino. Un cinese, allora possiamo fare il read bancario direttamente sul conto del cinese. Va bene, le do l'IBAN. In cinese? Sì. Così non capisco un cazzo. Ho visto che ha il telefonino. Giusto, non ci avevo pensato. Va bene, allora niente, la ringrazio, sì. Questo è il mio biglietto. Ah, biglietto da vista, bello. E probabilmente bello. Non ci sentiremo mai più perché con la provvigione comprerò una smart e aprirò un franchising. Allora, se ho bisogno sento dal cinese. Esatto. Va bene, grazie, arrivederci. Capelli molto lunghi, ci saluto. Vediamoli dal cinese. Già finito? I 2 minuti di lolly hanno una durata percepita variabile. Cara amica, ti saluto, la nebbia è densa e freddo farà, ore un turno però caspò, a primavera per ognuno, sera verrà, e raserà per ognuno, però caspò è primavera, non è autunno. Freddo, densa è la nebbia, ti saluto cara amica. Introdurre i genitali nell'apposito morsetto. Introdurre il telefono nell'apposito vaso. Attenzione! Stai per essere sottoposto ad una puntura di stricnina veloce. Il poeta della nostalgia, Albano, la sapeva lunga e forse sapeva che tu, per carnevale, compravi cipri e sall'aglio perché ti piaceva mangiare. Attenzione! Già finito? I 2 minuti di lolly hanno una durata percepita variabile. Buonasera, scusate se vi disturbo. Allora, sono Francesca, sono qui con la mia amica Ilaria e vi chiedo di chiamare tutti a gran voce Giulia. Quindi chiamiamola a gran voce così lei finalmente esce da là perché non sta uscendo, non so dov'è, al bagno, eccetera. Comunque, per favore, insieme, Giulia! Giulia, Giulia, vi prego, ditelo, Giulia, Giulia, esci, Giulia, Giulia, Giulia, dove cazzo sei? Non ha ancora bevuto. Two lonely minutes. È tutto il pomeriggio che le diamo da bere, ma... Giulia! Eccola! Per favore, invocate... Eccola! Giulia, adesso la bendiamo. Un applauso a Giulia, vi prego, vi prego, vi prego. Applaudite! Grazie! È bendata? Sì. Va bene, grazie, arrivederci. Sono due cantanti ferraresi, sì. molto bravi. Sì, l'ascolta, non tantissimo, però l'ascolta. L'ascolta. Beh, perché non tantissimo? Che musica? No, perché mia madre non balla, non è capace a ballare. Allora così gli piace quella canzone italiana. No, la canzone classica, diciamo. Classica, così. Gli anni 60, sì, quelle cose lì. Benvenuto. Hai fatto proprio il numero giusto. Quello riservato solo ai tipi come te. Intenditori, buon gustai, esigenti, sempre pronti a penetrare, a varcare quella soglia proibita, impregnata di passione. Lasciati afferrare l'apparecchio per stabilire un contatto sempre più stretto. Il telefono bolle quando chiamano i porcelloni come te, sempre arrapati, vogliosi, desiderosi di scoprire ogni giorno. Già finito? I due minuti di Lolli hanno una durata percepita variabile. Ventre? Non c'è. Bartoletti? Eccolo qua. Dunque, ieri sono venuta. Se ha bisogno oggi, guarda che lui con te. Battister. Monari. Quanti Veronesi, Colucci, Dolli. Benvenuta a Lolli. Sì, tranquillamente. Sì, sì. No. Sì, sì. No. Sì, sì. No. Sì. No. Tranquillamente. Sì, sì. No. Sì, sì, sì. No. No. No. Volevo farlo, però io non farei mai, insomma. Però grande tradizionalista, un sacramento, per ragione lui. Frascati, bravo, ma non andiamo su. Sì, sì. No. No. Tipo, ma sono solo io, no, non è perché, ero io. Over an image of a woman looking towards sunbeams in the sky, the credits read, Lee Garms presents Beyond Tomorrow. Non posso crederci. Già finito? Dovrei essere Fabio Di Camillo e anch'io ascolto Coxo Spaziale. E dunque sabato scorso sono stato a vedere questa mostra che si chiama La moda etnica estone dal passato al futuro, a cura di Annie Hint. E l'inaugurazione appunto c'è stata sabato e leggo dal comunicato stampa: per la prima esposizione organizzata dopo la riapertura permanente avvenuta il 6 ottobre scorso, il Museo del Tessuto e della Tappezzeria Vittorio Zironi di Bologna si apre ad uno sguardo internazionale presentando la moda etnica estone dal passato al futuro, visibile dal 17 dicembre al 24 febbraio 2018. L'iniziativa, realizzata in collaborazione con l'Unione Stilisti Estoni e con il supporto del Ministero della Cultura dell'Estonia e della Fondazione Esti Cultura Capital, consente di ammirare per la prima volta in Italia le creazioni di 15 stiliste estoni rappresentate da Annie Hint, curatrice del progetto espositivo e presidente della stessa Unione Stilisti Estoni. I 21 abiti esposti a Bologna sono creazioni di 15 stiliste affermate ed emergenti, alla costante ricerca di una combinazione tra elementi tradizionali ed uno stile più attuale, che invitano lo spettatore a percepire l'essenza dell'arte etnica estone, in cui il presente si interseca con il passato, un linguaggio immaginario costituito da materiali, forme, colori e motivi fondato sulla tradizione per l'altissima artigianalità di ricami e tessiture che testimonia quanto lo stile etnico formatosi nel corso dei secoli sia ancora oggi fonte di ispirazione vitale. Infatti, la nostra curatrice raccontava di come alcune di queste stiliste si fanno aiutare dalle loro madri o dalle loro nonne per appunto ritornare alle origini e utilizzare metodi tradizionali di ricamo, di cucito, eccetera. La mostra è al Museo del Tessuto e della Tappezzeria Vittorio Zironi in via di Casaglia 3, che fra l'altro è uno spazio magnifico che non c'ero ancora stato e non conoscevo, e affrescato, cioè, ha delle sale stranissime con delle cose antichissime, dei pezzi di ricami e di disegni su tessuto tipo del tempo degli Egizi, delle cose veramente molto particolari, per cui vi invito caldamente ad andare a vedere questa mostra. Il biglietto d'ingresso è 5 euro, ridotto 3, ed è gratuito con la card Musei Metropolitani di Bologna e anche la prima domenica del mese, per cui domenica non prossima ma quella dopo andate, potete entrare appunto gratuitamente al Museo del Tessuto e della Tappezzeria, che è in via di Casaglia, prendete il 20 o il 21, non mi ricordo più, esiste ancora il 22, no, non mi ricordo, comunque è vicino al Teatro delle Celebrazioni e a Villa delle Rose a Bologna. Dopodiché, naturalmente, come al solito, su www.coxospaziale.blogspot.com posterò qualche immagine di questa inaugurazione che mi sono appunto ampiamente goduto. Vado a cercare della musica estone per accompagnare questa fantastica mostra. Oh, molto interessante, perché sono i motivi tradizionali che la stilista ha visto sui guanti tradizionali, quindi muffole di una volta dove c'erano questi motivi e lei li ha riportati sugli abiti. E della stessa stilista abbiamo altri due modelli, quello nero e quello blu scuro qua dietro. Quell'ultimo invece, per creare questo motivo, è stato appoggiato sopra un tessuto chiaro, e invece i buchi che vediamo sono stati proprio tagliati dentro. Anche questo abito è stato fatto dalla mamma alla figlia, dalla stilista alla figlia. Ma dunque il ricamo tradizionale continua in Estonia? Sì, ricamo tradizionale sì. Sinon me il tikki, mis tonnot, eks ole, siin on mingi tikk. Aga need on kleebitud tehnikad, eks ju. Aga tikki, mis, aga on siin meil tikki, mis üldse vä. Per esempio, quello lì è un ricamo. Sì. Missugune musta? Perché qui in Italia si è un po' persa la tradizione. Quello con fiore, esatto, e quello sì, quello nero, abito nero col fiore, esatto, che la nonna aveva aiutato a ricamare. E dunque tutta la moda estone tiene molto presente la tradizione, oppure ci sono anche stilistiche che vogliono dimenticarla e fanno qualcosa di... Perché sì, perché kas kogu siis Eesti mood on seotud selle rahvusliku stiiliga või on ka neisugusi stiliste, kes... Rahvuslik stiil on ikka nagu selline luks, see läheb nagu harva. Allora, lo stile etnica è un lusso, quindi raramente un stilista si mette a fare, perché richiede molto lavoro, certo. No? Esatto, quindi... Non è unico collimod, eks? Esatto, sicuramente anche i modelli costano molto, un grande lavoro, lento e tanta mano d'opera, naturalmente. Tanta mano d'opera. Se Baltica tehas, kus on 16 disainerit, töötab, et see on nagu meie kõige suurem ettevõte, ja nemad teevad ikkagi mitmeid kaubamärke, aga ikkagi sellist tarbemoodi, tavalist tarbemoodi, mis mul üldse rahvus tegi. Sì, sì. Comunque sì, tanti stilisti lavorano per l'industria, no? Quindi lì, chiaro, crei un modello che richiede, non chiede tutto questo lavoro. Mm-hmm. Ok. Ikka instruktsioonid tulevad kõik Lääne-Euroopast, et trendid tulevad ikkagi, jah. Sì, sì, anche noi seguiamo le tendenze diciamo occidentale, sì, certo. Si chiama, cioè, internazionali, tutti, internazionali, diciamo, sì. Esatto, sulla Vittoria. E spesso i tutti istruttori vengono dall'Italia, ah, okay. Che è famoso per la qualità. Certo. I almost thought my life would be a hell of a ride, but I feel I've spent most of it sitting on the passenger side. I've been hiding in the dark, just watching a play, and then the light's gonna turn back on, and I'm old and gray, old and gray. Feeling that it's gonna be a brand new start. You've seen my face many times before, now I should show you my heart. Don't wanna see old childhood colors fade away. Soon the light's gonna turn back on, and I'm old and gray. Old and gray. So old and gray, in the blink of an eye, I'll be old and gray. Old and gray. Old and gray. Old and gray. Old and gray. Erano gli Out Louds con I Wanna Meet Bob Dylan. Alla fine appunto ho trovato un po' di musica estone da farvi sentire, ne ho ascoltata un po', casaccio, andando appunto a caso su YouTube, e ho scelto questa che è un po' pop, un po' molto pop, molto leggera, però mi piaceva il titolo e anche la faccia strana del loro cantante. Detto questo, ascoltando questo pezzo, effettivamente mi è venuta voglia di ascoltare Bob Dylan, e soprattutto un pezzo meraviglioso che spero non l'abbiate mai sentito, perché la prima volta che l'ho sentito sono veramente rimasto folgorato, soprattutto dal testo. Si intitola A Simple Twist of Fate, un semplice, come si traduce, un semplice giro del destino. They sat together in the park as the evening sky grew dark. She looked at him and he felt a spark tingle to his bones. 'Twas then he felt alone and wished that he'd gone straight and watched out for a simple twist of fate. They walked along by the old canal, a little confused, I remember well, and stopped into a strange hotel with a neon burning bright. He felt the heat of the night hit him like a freight train moving with a simple twist of fate. A saxophone someplace far off played as she was walking on by the arcade, as the light bust through a beat up shade where he was waking up. She dropped a coin into the cup above a blind man at the gate and forgot about a simple twist of fate. Was bare. He didn't see her anywhere. He told himself he didn't care. Pushed the window open wide. Felt that emptiness inside, to which he just could not relate. Brought on by a simple twist of fate. He hears the ticking of the clock. Walks along with a parrot that talks, hunts her down by the waterfront docks where the sailors all come in. Maybe she'll pick him out again. How long must he wait? One more time for a simple twist of fate. People tell me it's a sin to know and feel too much within. I still believe she was my twin, but I lost the ring. She was born in spring, but I was born too late. Blame it on this simple twist of fate. He hears the ticking of the clocks and walks along with a parrot that talks. Ascolta il ticchettare degli orologi e va in giro con un pappagallo che parla. Hunts her down by the waterfront docks where the sailors all come in. La cerca come un cacciatore attorno ai moli del waterfront, che sarebbe di fronte all'acqua, dove i marinai ritornano. Maybe she'll pick him out again. How long must he wait? Può darsi che prima o poi lei lo raccolga di nuovo, ma quanto deve aspettare? One more time for a simple twist of fate. Ancora un'altra volta per un semplice giro del fato, del destino. People tell me it's a sin to know and feel too much within. La gente mi dice che è un peccato conoscere e sentire troppo da dentro. I still believe she was my twin, but I lost the ring. Penso ancora che fosse la mia gemella, ma ho perso l'anello. She was born in spring, but I was born too late. Blame it on a simple twist of fate. Lei era nata in primavera, ma io ero nato troppo tardi ed è tutta colpa di questo piccolo giro del destino. 1975, questo era Bob Dylan, un pezzo veramente spettacolare che alle volte, appunto, dopo tutte le cagate che ha registrato, tra virgolette, naturalmente, può giustificare il fatto di aver vinto il Nobel per la letteratura, direi. Cox spaziale, Cox spaziale, Cox spaziale, Cox spaziale, Cox spaziale, Cox spaziale, Cox spaziale, Cox spaziale, Cox spaziale, Cox spaziale, Cox spaziale, Cox spaziale, Cox spaziale. E dunque siamo alla 201esima puntata di Cox spaziale. Io come al solito sono senza Fedra e sono a Torino, dove questa sera siamo in differita di nuovo. C'è un gran casino, del resto effettivamente ci sono le feste natalizie che, per quel che mi riguarda, come ho scritto da qualche parte su Facebook, userei un lanciafiamme e darei fuoco a tutto e a tutti, per cui appunto buone feste. Soprattutto, come sentite, la mia valigia continua a fare un gran casino, ma non vogliamo essere autoreferenziali. Dicevo, oggi ero a Torino, oggi che non è poi oggi, ma era qualche giorno fa, e la nostra Feda è impegnatissima con tutte le festività natalizie, io pure, nel senso che quando questa trasmissione andrà in onda non sarò nemmeno vicino a Bologna, ma noi, belli come il sole, continuiamo imperterriti con le nostre trasmissioni. Oggi ho incontrato questa fantastica band che si chiamano Twi, che abbiamo già suonato in passato. Mi hanno promesso di spedirmi gli MP3 del loro nuovo LP, grazie, e se l'hanno fatto ve lo faccio sentire, se non l'hanno fatto sentiamo qualche altra fantastica canzone che disadattati in giro per il mondo ci spediscono all'indirizzo coxospaziale@gmail.com. I like to be a queen if I only didn't have bad dreams. I want to kill the ghosts when demons bother me. You should really have to listen to what I'm listening to me. And I was take a look at why I had to buy the trees. But I never meant to care about that. Looking out, I know what I need for myself. Ladies and gentlemen, hear me stop being so influenced by what you're reading. So just please get over it, cause I don't understand. I don't understand. I don't understand. What you're thinking, I don't understand. I'm wrong. E questi erano i fantastici Twee e il pezzo si chiama No Pain e viene dal nuovo album che non mi ricordo come si chiama, perdonatemi. Ringrazio Gianluca, il fantastico chitarrista, che si è ricordato di mandarmi tutto l'album con WeTransfer, per cui nei prossimi numeri, nelle prossime puntate di Coxo Spaziale, in questo momento vi sto parlando dalla simpaticissima tangenziale ferma, tanto per cambiare, anzi spero che in questo venerdì sera voi non siate anche voi fermi in tangenziale come sono io nel momento in cui sto registrando questa puntata. Ribadisco appunto che la puntata è registrata. No, dicevo, nelle prossime edizioni di Coxo Spaziale cercheremo di ascoltare altri pezzi di questo fantastico album e prima o poi riuscirò anche a intervistare i Twee e la loro fantastica cantante Nadia in uno dei miei entourage torinesi. Anzi, in realtà mi piacerebbe tantissimo che venissero a suonare dal vivo qui in studio, anche se, come appunto sentite dal rumore di sottofondo, io non sono esattamente negli studi di Radio Città Fujiko. No, dicevo, mi piacerebbe moltissimo che venissero a suonare negli studi di Radio Città Fujiko, anche perché abbiamo un microfono fantastico, un compressore fantastico e di solito i pezzi dal vivo vengono molto bene in questa radio. Infatti mi piacerebbe appunto poter avere la libertà di far suonare alcune delle mie band preferite o di amici suonatori che possono appunto venire nel nostro fantastico studio e fare qualche pezzo dal vivo, come in passato hanno fatto amici come Enrico Farnedi, Riccardo Lolli, Roberta Giallo, i Dirty Sick European, che ricordiamo aver fatto un ottimo live qui da noi. Forse mi sto dimenticando qualcuno, i Roy Noir, e poi non mi ricordo chi altri sono venuti, sicuramente me ne sto dimenticando due o tre, ma naturalmente se andate su www.coxospaziale.blogspot.com trovate tutti i nostri podcast, inclusi quelli dei live fatti. Anche i Comaneci so che hanno un nuovo disco, gli ho scritto su Facebook, anch'io sono un grande fan anche di loro, e appunto gli ho scritto che li aspettiamo negli studi di Radio Città Fujiko. Con loro probabilmente è tutto molto più facile, visto che sono solo chitarra e tastiere, non mi ricordo più. Io effettivamente la volta che ho sentito i Comaneci suonare era un house concert in Berlin, ed effettivamente era Francesca da sola con la sua chitarra. Un'esperienza meravigliosa. Anzi, ne approfitto e vi suono un pezzo antico, adesso non così tanto antico, ma di qualche anno fa, dei Comaneci. Satisfied. teniamo la destra. Io in realtà sarei tendenzialmente leggermente più dall'altra parte, come quasi tutti, spero, anzi la, sicuramente la maggior parte dei DJ di questa radio, tendiamo un attimo un po' più a sinistra, anzi forse più a sinistra di quasi tutto il panorama politico che c'è. Ma come ben sapete, Coxo Spaziale non si occupa di politica, si occupa di arte e teatro, e oggi nemmeno di questo, visto che non abbiamo l'angolo della menzione, perché essendo a cavallo di queste feste, stavo per dire pagane, ma molto poco pagane, anzi molto poco interessanti. Io devo dire che se c'è un periodo dell'anno che apprezzo poco è proprio questo di questi giorni, soprattutto per quel che riguarda la comunicazione, sia adesso fortunatamente nella nostra radio non martellano più di tanto con le musiche natalizie, ma se c'è una cosa che veramente sopporto a malapena è proprio tutta questa atmosfera di falsissima bontà, che non è altro che un escamotage per farci consumare in maniera ossessiva e farci mangiare cose che ci fanno malissimo. Cioè, io che sono vegetariano, per cui niente tacchino, niente zampone e niente di tutto ciò, comunque mi trovo davanti ad un pandoro e faccio fatica a non ucciderlo. Dicevo, non abbiamo l'angolo della menzione e dunque la puntata pressoché ora si conclude qui. Abbiamo sentito un po' di musica, abbiamo fatto i nostri saluti ai nostri tre radioascoltatori, salutiamo anche tutti gli altri, ovvero voi che ci state seguendo da qui. E io sono quasi arrivato all'uscita 11, che è dove devo uscire nella mia fantastica guida in tangenziale. E niente, buone feste comunque, e ci sentiamo, auguri a tutti, ci sentiamo la settimana prossima. Questo era Coxo Spaziale, io sono Stefano W. Pasquini, la nostra Fedra Boscaro è assente per non per malattia ma per feste natalizie, ma sicuramente sarà con noi venerdì prossimo, per cui non mancate e mi raccomando, continuate ad ascoltare la fantastica musica di Radio Città Fujiko. Con questo basso livello di radiofonia ascoltiamo la sigla. Smoking men for